Parte terza, capitolo settimo. La roccia bagnata dal mare. Aprile 1950. 1. L'aquila marina sta sospesa nel cielo infinito. Squisito dominio è il suo. Staccata e tranquilla osserva la roccia bagnata dal mare. In quella primavera una nuova visione fu nostra, chiara e senza perplessità. Non eravamo più turbati dalle mille contraddizioni dell'amore, dell'odio, dell'illusione e del tradimento che costituiscono il paradosso dell'essere umano. E oltre al sordido torrente degli insulti, della paura e dell'avidità, vedevamo il luminoso splendore che nulla può insozzare o conquistare, la gloria eterna. Sulle ali dell'amore vedevamo la roccia bagnata dal mare. Ivi si affrettano coloro che non hanno meta, creature di un regno cieco, mansuete e senza speranza nella primavera tenera e appassionata. Lilivù e le sue sorelle, devastati emblemi di un triste peccato notturno, capri espiatori che esercitano la loro onesta disonestà nelle strade della notte, e i cui visi sorridenti appaiono incorniciati dalle finestre illuminate dell'atrio di un albergo. Sui loro volti si legge la gloria di Dio e l'innocente depravazione del loro mestiere. Un gruppo di marinai si riversa per le strade. «Arrivederci, Bud, ci vediamo domani!» La prostituta di Shanghai, dai capelli crespi e dalle labbra rosse, tira per la manica il giovane biondo e magro, dal viso ancora segnato dalle pustolette dell'adolescenza. E dato che è completamente ubriaco, non ha difficoltà a trascinarlo in un taxi. La Venere, efficiente, grida l'indirizzo con impazienza, poiché il tempo è denaro sulla roccia bagnata dal mare. Delle 361 professioni che vengono esercitate a Hong Kong, nessuna è più utile di quella delle dame del profumo notturno. Le donne del dipartimento di igiene, 900 creature dell'oscurità vestite di nero, spazzine della notte che tengono pulita la città. Nessuno le incontra all'infuori dei due innamorati presi dalla follia lunare e incapaci di lasciarsi, che camminano per le strade al canto del gallo, accovacciate intorno ai loro secchi, accanto ai dormienti arrotolati per terra nelle loro stuoie putride. Le donne attendono, chiacchierando affabilmente di cibo, di bambini e di denaro. Molte sono incinte, e alcune portano il loro ultimo nato sulla schiena, avvolto nel quadrato di tela ricamato con parole di buon augurio che costituisce la culla del bambino cinese. Le donne attendono che la città sia addormentata, poi si alzano, si gettano il palo di bambù sulla spalla e, bilanciando i due secchi, si arrampicano su per le luride scale delle case in rovina, strisciando dentro stanze fetide in cui si ammucchiano i dormienti e lungo pareti traspiranti umidità, e ovunque vuotano i recipienti coperti contenenti concime umano, le feci della giornata. Senza di loro Hong Kong sarebbe un solo fettore, perciò, con spirito alla Rabelais, noi le chiamiamo le dame del profumo notturno. Ivi vanno i prudenti, che sono convinti di possedere la propria anima. In cima alla piramide Adeline Palmer Jones. Dal suo palazzetto sul Peak la realtà guarda Hong Kong. La sua vita scorre facile entro l'orbita della buona opinione che ha di se stessa, congratulata da numerosi ed ossequienti satelliti. Adeline organizza la carità, è la sua professione, e nella gerarchia della sua società ha fatto molto. La ferma convinzione che tutto sia buono e grato a Dio nel suo mondo, che i poveri esistano unicamente affinché lei possa esercitare la sua benevolenza, e che non ci sarebbe comunismo se ci fossero più Adeline, mi lascia senza fiato. Adeline esiste solo in quanto esistono le dame della notte, e Lilivù, e i poveri, e i profughi, e i senza tetto. I poveri l'hanno sempre dalla loro parte perché giustificano la sua esistenza. Se Adeline è l'apice della piramide, i poveri ne sono la base. Essi costituiscono il rovescio di quella medaglia di vita che porta incisi i suoi lineamenti. Una medaglia a una sola faccia non avrebbe significato. I poveri e Adeline sono uguali al cospetto del cielo. Ed ecco Suzanne, gioiosa e gaia, la mezzosangue, l'eurasiatica. A Hong Kong ve ne sono molte come lei. Suzanne non si è liberata di quel senso di inferiorità rispetto ai bianchi che le concessioni e il colonialismo hanno fatto nascere in lei. D'altra parte, molti eurasiatici a Hong Kong diventano deliberatamente cinesi e disprezzano il loro sangue bianco, ma qualunque sia la loro scelta, ben pochi di essi possono sentire le passioni, il fanatismo, le torride emozioni che spazzano il continente dietro alle colline, e pochissimi sono in grado di comprendere il vero significato della tradizione europea. Non possono vivere in Cina, non vivono in Europa e così qui si fermano e qui rimangono, autentici cittadini della roccia bagnata dal mare. Ecco laggiù guizzare Ernest Watts, il pesce dorato, il completo. Percorre solitario la roccia bagnata dal mare, solitario ovunque vada. Confucio dice: quando un uomo non gode delle simpatie generali, studialo attentamente, poiché è un grande uomo. Ernest Watts, che mi siede vicino mentre mangio una macedonia di frutta, mi beffeggia come sempre. Siete davvero straordinaria, dottor Han. Le vostre parti sono infinite. Madre premurosa, contegnosa matrona cinese, medico energico ed efficiente, poeta appassionato. Sorrido, col miele sulle labbra e una lama nel petto. Mormoro la mia approvazione ammirata e ricordo le parole che Mark mi ha detto la sera prima. Se potrò mai sposarti, non sarà una donna che avrò, ma un intero harem. Immagina tutta la piacevole varietà di un harem, senza gli inconvenienti della poligamia. Te ne prego, non farmi mai sapere come sarai tra un'ora. Mi piaci tanto così. Con serena e infernale perversità, Watts continua. E poi andrete a Pechino a nascondere il vostro povero cuore infranto? La notte di aprile è splendida e mite, e la testa di Mark risplende sotto la luce nel mio intimo rido di Ernest Watts. Sempre osservavo Watts, affascinata dalla sua voce, dalla sua cultura, dall'appassionata integrità del suo spirito, dal suo freddo disprezzo per ogni ciarlataneria, dalla sua ironia devastatrice, temprata e liscia come acciaio, e sempre accettavo il suo disprezzo. Dopo il quarto pranzo offerto da Watts, anitra con castagne, il piatto preferito di Mark, al quale Mark, Diana Kilton e John Tan sono stati invitati senza di me, Mark mi chiese: «Pensi che Watts non abbia simpatia per te?» Semplice, come ogni innamorato, che non avrebbe mai capito, anche se avessi voluto spiegargli, soggiunse: «Devo dirgli quello che significhi per me?» «Oh no, mai!» Ma un giorno dovrai dirgli quello che lui significa per me. E cioè? Il pesce dorato che nuota tutto solo e ha visto entrambi i lati della sua vasca, ma che è tradito dalla debolezza della sua visione, come lo siamo tutti. Mark, digli anche che, qualunque cosa pensi di me, lo stimo più di tutti i professori dell'università messi insieme. Ecco Humphrey Palmer Jones, alto e affabile, che non fa che stringere la mano a Mr. Cam, a Mrs. Cam, a Master Cam e a tutte le Miss Cam. Nel corso di questa primavera è diventato adulto. Humphrey significa affari, Humphrey è il nocciolo dell'esistenza di Hong Kong. Egli non possiede, come la Princely House of Trade, gran parte della città. E anche di Shanghai, e Dio sa quante altre cose, ma ha un notevole giro di affari, e ciò significa che è vulnerabile, e quello che accade in cima, quanto lo è tutta Hong Kong. Humphrey sa che nessun orologio può tornare indietro, e in questi ultimi mesi ha smesso di sperare nel ritorno dei vecchi tempi, deve adattarsi o perire. Si adatterà. Ha subito perdite notevoli, forti tasse da pagare in Cina e Mr. Parrish, che ha piantato la ditta per andare in Giappone, dove gli scambi commerciali con la Cina sono assai più facili che non a Hong Kong, ma d'altra parte Ha incominciato a trattare con gli agenti commerciali della nuova Cina e la loro efficienza lo ha favorevolmente impressionato. Ho fede e fiducia nel futuro, dice Humphrey, ma non si pronuncia su quello che sarà il futuro. Egli sa che la roccia bagnata dal mare vive di tempo preso a prestito, ma tutto il tempo è preso a prestito. Nei suoi molti mondi, nella sua diversità, nelle sue contraddizioni che si ignorano vicenda, in tutto ciò che tende a disgregare Hong Kong, egli vede una speranza di sopravvivere, l'elasticità necessaria ad affrontare i cambiamenti dei giorni che verranno, e così tiene duro, senza perdere la testa, incassando con disinvoltura duri colpi, non lasciandosi travolgere dal panico. In compagnia di Humphrey, bevendo limonata sul tetto terrazza dell'albergo, vediamo sorgere il China Building. Nell'area vuota, accanto alla Shanghai e Hong Kong Bank, un centinaio di operai lavora indefessamente, fra gru, scavatrici e autocarri, portando via la terra che non serve. 200 donne caricano anch'esse il terriccio nei loro cesti, in concorrenza con le macchine e a minor costo. Affascinato come sempre dal ronzio delle scavatrici e dal movimento degli operai, Mark segue lo spettacolo con gli occhi azzurri spalancati per il piacere. Humphrey non può trattenersi dal ripetere la sua battuta preferita. Avranno finito giusto in tempo per l'arrivo dei rossi. Gli impiegati governativi scendono in macchina agli uffici dalle loro abitazioni sulla collina. Governo coloniale, limitato, paterno, confuso, la cui tragedia prima è il compromesso. Si cammina piano, con prudenza, e quando il vecchio sistema non funziona, si concede, si passa ai compromessi, centimetro per centimetro, passo a passo. Trovare la formula, questo è il sistema inglese. L'amministrazione è un mal di capo continuo, alleviato dall'aspirina del compromesso e dall'impacco freddo della cautela. È un perpetuo stare in bilico fra passato e futuro, fra interessi contrastanti, così numerosi che ogni soluzione risulta empirica e temporanea. Tubercolosi. Va male, sempre peggio. Questa settimana registra 387 nuovi casi e 92 morti, ma non possiamo fare a meno di ridurre le razioni supplementari dei malati. Ci sono altre cose più importanti. Quali altre cose? Non c'è forse stato un avanzo nel bilancio? La tubercolosi può mietere centinaia di vittime e Hong Kong non può essere difesa che per pochi giorni, ma la difesa ha la precedenza. L'amministrazione cammina sul filo del rasoio, tentennando, ma senza mai cadere. In una scuola cinese gli studenti ballano lo Yangko. La scuola viene chiusa per deficienza di attrezzatura sanitaria. Compromesso. In tutte le strade, in tutte le librerie cinesi, la letteratura della nuova Cina mette in mostra le sue innumerevoli copertine rosse, blu e gialle, le sue stelle, le sue falci, i suoi martelli, vita di Stalin, vita di Mao Zedong, vita di Lenin, il marxismo spiegato, autocritica. E i giornali comunisti si vendono ovunque. Questa è l'amministrazione inglese, libertà di stampa. Ci limitiamo a deportare senza far rumore coloro che dicono troppe cose che non ci piacciono. Pesce. L'amministrazione cerca di spezzare il circolo vizioso che fa rialzare i prezzi, ma troppi interessi vi sono coinvolti. Mal di capo, compromessi, molti impacchi freddi. Non possiamo permetterci di migliorare eccessivamente le condizioni di vita a Hong Kong. La manteniamo a un livello sufficientemente basso da non staccarci troppo dal resto dell'Asia, altrimenti verremo sommersi da una valanga di gente dall'interno. I proprietari di fabbriche di Shanghai impiegano ragazzine per il lavoro notturno ai telai, raddoppiando i loro profitti. Il governo fa chiudere le fabbriche. I più duri col loro popolo sono gli stessi cinesi. Sfruttano i loro dipendenti come nessun inglese oserebbe fare nel 1950. Pensano soltanto ad arricchirsi in fretta e ben pochi nutrono un interesse per Hong Kong. L'amministrazione coloniale stringe i denti e continua il lavoro. Sappiamo che non vi è nulla che duri in eterno, ma se saremo costretti ad andarcene, speriamo di lasciare dietro di noi parte di quei principi che abbiamo tentato di mettere in pratica. Giustizia, onestà, tolleranza. Abbiamo fatto del nostro meglio. E questo è vero. Pur nelle sue imperfezioni e nelle sue esitazioni, il governo coloniale ha dato a Hong Kong giustizia, onestà e una certa tolleranza. Non sempre, naturalmente, ma tuttavia abbastanza da lasciare un segno di sé, una traccia troppo preziosa per poter venire cancellata. E questa stessa amministrazione coloniale deve spesso intromettersi fra cinesi e cinesi più duri e più spietati nei loro rapporti reciproci di quanto potrebbe esserlo un inglese del giorno d'oggi. Ecco, Mr. Kam, nella sua grande macchina si reca un importante pranzo d'affari nel più grande ristorante della città. Mr. Kam è cinese e all'udire le cose meravigliose che si stanno facendo nell'interno, un'ondata di segreto orgoglio gli gonfia il petto. I suoi agenti sono stati a Pechino, dove il commercio è attivo sia nel continente che con Formosa, ma nonostante questo a Mr. Kam dispiacerebbe che Hong Kong venisse presa dai comunisti. È ancora troppo presto. Ha una grande paura che il nuovo governo faccia veramente quello che dice di voler fare. È diviso fra l'orgoglio nazionale e le preoccupazioni personali, e così sta in bilico tra le due parti, sperando che venga un giorno in cui non vi sarà più nessuna parte. Lo stesso fa il fratello di Mr. Kam, piantatore di gomma a Malacca, che paga una forte somma ai terroristi perché lo lasciano in pace e al tempo stesso sostiene apertamente l'amministrazione. E che altro potrebbe fare? Ha tanta paura. Molti altri come loro camminano sul filo del rasoio e vengono considerati indegni di fiducia per la loro incertezza. Ecco là Sen e Rose, entrambi comunisti. Passeggiano con Mark per la Hollywood Street, un tempo famosa per i suoi bordelli e ora piena di negozi di libri. Rose respira con decisione, emettendo con evidente disprezzo dalle narici l'aria contaminata di Hong Kong. Hong Kong è una cloaca di iniquità. Qui si sono raccolti tutti i trafficanti, i gangster, le prostitute, gli opportunisti, gli adulatori, gli sfruttatori del popolo, le spie e i reazionari che la nuova Cina ha scacciato. È verissimo, ma ci sono anche molte migliaia di profughi che il terrore ha spinto a fuggire e qualche persona veramente degna. Le labbra di Sen sono incurvate in un lieve sorriso di superiorità mentre parla con Mark di Winchester e di Cambridge, della regata universitaria in Inghilterra e delle regate del drago in Cina, delle grotte di Tunhuang e di Haussmann. Mark suona lo zufolo e Sen il flauto cinese. Credete che potrò mai tornare a Pechino? Chiede Mark timidamente, con quella sua aria di innocenza che trae molti in inganno. Ho presentato un'altra istanza, ma non ho avuto risposta. Dipende, esplode Rose, se siete un amico sincero o no. Già, mormora Mark. Gli inglesi sono perfidi, dichiara Rose, e gli imperialisti americani sono ancora peggio. Dobbiamo combattere la loro cultura aggressiva e degradante e impedire ai loro guerrafondai di portare il mondo a un immenso disastro. Si precipita in un negozio e ne riesce tosto con una copia del New China and Monthly Review per Mark. Si parla tanto di indottrinamento, soggiunge Sen, eppure veniamo tutti istruiti a seguire determinate dottrine in un modo o nell'altro. Voi, ad esempio, Mr. Elliot, siete stato irrimediabilmente influenzato dalla vostra educazione da scuola pubblica inglese. La vostra condotta e le vostre reazioni sono subordinate alla falsa concezione feudale di vita che vi è stata inculcata in gioventù. Già, ripete Mark, sì, è così, non ci avevo mai pensato. Qui a Hong Kong, Sen e Mark possono discutere, divisi dalle loro convinzioni, ma senza odio e senza insulti, e non si rendono conto che la loro cortesia reciproca compie quello che non può essere compiuto altrove. Per un attimo Mark ed io ci guardiamo sperando che dopo tutto il mondo non sia irrimediabilmente diviso, condannato all'uno o all'altro di due sistemi economici contrastanti. Indubbiamente ci deve essere un giusto mezzo. Tolleranza ed equilibrio sono possibili, deve essere così. Noi vogliamo la pace, dichiara Sen, e gli americani vogliono la guerra. Non potrebbe trattarsi di diffidenza reciproca, arrischia Mark. Inglesi almeno non sono sconsiderati, ammette Sen. So che anche voi eravate favorevole al riconoscimento del nostro governo, Mr. Elliot, ma è avvenuto per motivi puramente commerciali. È 3 mesi troppo tardi, è stato un insulto alla nuova Cina. Non credo che sia come voi dite, ribatte Mark. Noi inglesi siamo sempre un poco lenti, sapete, è il nostro clima. Si fermano accanto al tempio del dio della guerra e della letteratura e lasciano spaziare lo sguardo sul porto azzurro e affollato di navi, sul gregge rumoroso che si affanna avanti e indietro, sulla grigia ragnatela della città. Si fermano a guardare il futuro che si avvicina e il presente che se ne va. Sì, dice Sen, togliendosi la pipa di bocca con gesto tipicamente inglese e indicando l'orizzonte con un ampio movimento del braccio. Sì, credo che lasceremo tutto questo com'è per il momento. Ce lo riprenderemo più tardi. Il suo tono è di benevola condiscendenza. E perché no? Dice Mark, sereno, gli occhi azzurri come l'acqua del porto. Un giorno tornerà a voi, è giusto che l'Asia appartenga alla sua gente. 2. Marzo e aprile, 6 settimane di primavera. Follia esuberante e inestinguibile, risa profonde, gioiose, estasi fatta di foglie, di chiazze d'ombra, di fiori, del canto degli uccelli. Di cielo, di sole, di vento e di tanti giovani desideri. Frullio d'ali, sbocciare di gemme, richiami di cuculi. La primavera è tornata. Tu non hai bisogno di me, Mark. Non hai bisogno di nessuno. Basti a te stesso. Il suo riso, esultante, quasi arrogante, sotto la pelle il calore liscio, tenero e compiuto che dona l'amore soddisfatto. Un uomo vivo. Verrò a cercarti, anche se ci volessero 10 anni. Quando l'aria risuonerà di grida e di guerra, ci divideranno ringhiando l'odio. Gli altri, quelli che odiano. Io sono legato a te per sempre. Questa follia passerà, splendida, terribile desolazione, assalto intollerante e insaziabile in cui tutte le porte della carne si aprono alla frenetica, improvvisa primavera. L'insolita malattia passerà. Dopo l'infezione la foglia non è più la stessa. Oh, roccia bagnata dal mare, sciamante e brulicante di fame e di miseria, di prosperità e di bisogno. Di abbondanza e di sciupio, di vizio e di purezza, di corruzione, di leggi, di giustizia e di privilegi, di enti assistenziali e di proprietà privata, di monopolio, di grossi affari, di traffici, di tubercolosi, di bellezza e di orrore. Hong Kong, finestra della democrazia, rifugio dei trafficanti di Shanghai e dei missionari americani, dei professori cinesi e degli affaristi internazionali, dei generali Kuomintang disoccupati e delle prostitute di Pechino, delle ragazze da marito londinesi e dei fumatori di oppio dell'interno, rifugio di profughi e di esiliati politici, meta di tanti reietti del nuovo mondo e dei relitti del vecchio Oriente ormai ammuffito. Grande albergo di uomini alla deriva, di uomini nuovi, di uomini che non sanno dove andare. Hong Kong, avamposto dell'impero, escrescenza della Cina, con 2.400.000 cinesi, comunisti, nazionalisti, assenteisti. Hong Kong è Eterno mercato brulicante dove la vita e l'amore, le anime, il sangue e tutte le cose che nascono e crescono sotto il sole sono comprate e vendute, contrabbandate e sciupate. La primavera è ritornata a te. La roccia offre visioni sempre diverse. Il pericoloso brulicare delle straducole verticali dei poverissimi, i casamenti in rovina formicolanti di insetti, la praia multicolore, odorosa di sudore, di pesce salato, di mele, di olio, di farina, di macchine, di pepe rosso e di mare, le colline meditabonde che si specchiano nell'acqua. Si passeggia su pietra e su sabbia, nell'erica e nelle alte felci. Ci si tuffa nell'umanità, tra la polpa marcia delle arance e dei cavoli ammuffiti, fra lo sputo, l'urina e la polvere, fra tappeti persiani e lucidi pavimenti di legno prezioso, voci in falsetto e tazze da tè. Si sale per i sentieri solitari ad ammirare la sontuosa città ingioiellata per la notte ai nostri piedi. E in tutti questi luoghi il mio cuore sperduto impazzisce i ricordi. Ci sono parole che non posso dire, blande, innocenti parole senza significato, pronunciate improvvisamente da gente ignara che mi avvolgono in una ventata di bellezza e di estasi vissute. E Mark ed io, colpiti da un improvviso ricordo, non riusciamo a soffocare il riso nella sala gremita di gente compassata ed educatamente interrogativa. Siamo presi nei terribili artigli del piacere ricordato, delle passate delizie. È terribile, vero? Questo lo dice Mark. Piacere e dolore, estasi senza corpo, insensibile, separata, staccata, momentaneo possesso totale della propria anima, sola, scevra da ogni desiderio. E poi il silenzio lento e bello che cala lentamente sulle colline, nel sole, nella tenera notte di primavera. Ho perduto me stessa, è come la morte. Canto di uccelli, felice e meraviglioso canto, chiaro che chiama l'alba. Lo splendido mattino, i rigogoli cantano sul pic prima che gli europei si alzino dal sonno e Mark e io camminiamo nella sottile nebbiolina che ci punge il viso. E l'alba si fa strada tra la nebbia, dando forma ai castelli di nuvole, torri orgogliose che sollevano la vasta e tersa volta del cielo, in alto, sempre più in alto, mentre gli uccelli aprono i loro cuori in un canto di appassionata primavera. Ascolta i rigogoli, i bulbulle, gazze, i pappagallini, il picchio dei fiori dal capino giallo e il cuculo rumoroso e pazzo. Se questa è follia, rimaniamo sempre folli. Oh, dolore, dolore, dolore che chiama, come chiamano i rigogoli intorno al pic nell'alba, dolce e gentile, pena squisita che è parte della nostra gioia, sempre. Non ho amato abbastanza, non ho vissuto abbastanza. Fame e sete insaziabili ed estreme, vivida e acuta angoscia, febbre di vita che scorre, pulsa, martella, balza e trabocca, vedi, hai udito, senti il profumo, tocca, sopra il nostro capo, sotto ai piedi, nell'aria, intorno a noi, oltre a noi, tutto quello per cui gli uomini pregano, occhi per vedere, orecchi per udire, cuori per accogliere, tutto questo e molte cose ancora nostre nella violenta frenetica primavera. A volte mi ribello al pensiero di te che mi prende tutto. Non mi lasci mai, mai, sei sempre con me. Tenerezza, dolce, forte e profonda che mi protegge dalla vigilante viltà interiore e quando non chiamate sorgono le ombre del mio terrore, ecco la sua tenerezza. Nessuno mi ha mai trattata tanto dolcemente. Di che cosa hai paura? Oh, di cose terribili, ombre, non so. Della guerra, forse. Credi che la guerra potrebbe distruggerci? La guerra, sì, la guerra distrugge ogni cosa. Sì, forse la guerra. Aprile è un mese crudele. Caprifoglio, frangipane, dolce cassia sui muri grigi e pelosi dalle nicchie verdi di felci e tappezzate di muschio. E le azalee. esultanza della terra, ostentante la sua nuda bellezza rosa e purpurea sulla collina di fronte all'affettato palazzo del governo, miscuglio fra la pagoda cinese e il patio messicano, lungo il viale dell'università, su per i pendii e giù fino all'acqua azzurra, sommergendo la roccia bagnata dal mare nella rossa follia che sembra sfidare il cielo. Chi può desiderare l'immortalità quando la bellezza è tanto mortale? Preferirei essere un fiore rosso nei tuoi capelli. Pallida luna di primavera, giovane, diffidente, dalle guance incavate che rincorre le stelle ed è inseguita dalle nuvole. Mare tranquillo, oculato dalle stelle, stelle marine, cadenti. Mare quieto e solitario nella morbida notte di primavera. È difficile non desiderare di avere, di stringere in pugno, è difficile non possedere. Fame, fame che tutto copre come l'azalea la roccia bagnata dal mare. Passeggiando con Fiona, James e i cani sulle colline rosse di azalee in fiore, trovammo un mattino i primi ireos di primavera, umidi di pioggia. Oh, guardate, guardate! Gridò Fiona, inginocchiandosi, e tutti i cani si arrestarono alle sue spalle attenti, coi musi tremanti. Piove un poco, poi il sole ricomparve all'improvviso. Mettemmo in fresco la birra nell'acqua di un torrente sotto le rocce e tutti i cani si dissetarono. Con May e Ginger e qualche altra compagna di scuola di May salimmo a cogliere felci sugli stretti sentieri. Sotto di noi il vento tremava sul mare, le bimbe allegre ridevano. A volte Mark accompagnava le bambine al cinema. Poi le portava a far merenda, rimpinzandole di dolci e di gelato al cioccolato. Queste uscite con tua figlia e le sue amiche mi costano un patrimonio. Riescono a consumare una quantità fenomenale di cibo. E la gente si ferma fuori della pasticceria per vedere l'inglese che prende il tè con quattro ragazzine decisamente molto cinesi. Un giorno, oh no, venne con noi a nuotare nel mare e si rifiutò di credere che fosse veramente il mare. Non rise mai, entrò nell'acqua fino alla vita, guardandosi le mani immerse, ma non disse nulla. Con sei amici partimmo alla scalata del Lantau, nuda isola coi suoi due picchi avvolti nelle nuvole. Sul traghetto, tra la folla cantonese allegra e rumorosa, erano sparsi grandi cesti di cavoli e di rape, di spinaci, agli, peperoni e cetrioli. Dopo lo sbarco, 5 ore di cammino, per i campi di riso, coi bufali d'acqua che ci guardavano stupefatti, e le contadine intente ad arare sotto gli ampi cappelli di paglia, che ci gridavano il loro cordiale saluto. Poi l'inizio della salita nella nebbia e nella pioggia, citando versi e cantando marziali canzoni cinesi, e infine il monastero buddista appena sotto la cima della montagna e il piccolo sacerdote cordiale e cortese come un buon direttore di albergo che ci offrì una tazza di bollente tè verde. Mark ed io uscimmo nel giardino fra le pacifiche file di fagioli, di cipolle, di cavoli e ci guardammo tenendoci per mano, coi capelli ancora scintillanti di pioggia e i piedi che affondavano lentamente nel fango. Poi rientrammo a raggiungere gli altri e Mark si mise a risolvere parole incrociate al lume della lampada. Pose i suoi calzini ad asciugare sulla lampada perché non c'era fuoco. Il mattino seguente ne trovai uno carbonizzato. Alle 4 del mattino la grande campana di bronzo del monastero ridestò la vita coi suoi rintocchi e monaci e novizi si inginocchiarono fra l'incenso nel grigiore che precede l'alba a supplicare la grande pietà dorata, la misericordia rannicchiata sul loto del mondo. Il suono alato della campana si diffondeva all'infinito e il secco rumore degli strumenti di legno punteggiava l'antifona nasale dei sacerdoti, dei novizi e degli accoliti che, disposti in file, battevano il tempo con le dita. Mark ed io ascoltavamo, vivi. Mark sapeva mantenere un certo controllo esteriore. Io no, l'intollerabile fame mi impediva ogni riposo. Riluttanti, col primo timido chiarore dell'alba, che quasi scusandosi appariva alle nostre spalle, ci separavamo per andare a scriverci una lettera. A mezzogiorno correvo su per la collina, dal mio ufficio fino al circolo dei giornalisti, dalla grande veranda fiorita. 10 minuti per guardarci, poi scappavo via al lavoro. Cielo, come siete belli insieme! Aveva esclamato Evelyn Walsingham. Irradiate luce! E si era fermata a guardarci, stupita. Oh, passione meravigliosa, sempre contaminata dalla paura degli uomini, insopportabile fame di vita. Una briciola di passione genera una briciola di polvere. Quanto è saggio il poeta cinese che non dimentica mai l'altra faccia della moneta d'oro che spendiamo, la moneta della vita, bifronte come Giano. Il viaggio è meglio dell'arrivo, l'attesa è gioioso indugio. Voglio essere legato a te per sempre. Ma lo siamo, legati e liberi. Soltanto chi è libero può dare se stesso e perciò ti appartengo. Non ti tratterrò mai contro la tua volontà, Su Yen. Un giorno mi lascerai. Io? No, di certo. Sii tu. Non per un uomo, ma per l'ignoto, la sfida. Oppure per la Cina. La Cina che è nelle tue ossa, e io ringrazierò Dio di averti conosciuta, sciocca e folle donna che non crede nel mio amore. Oh, sarai tu ad annoiarti e ad andartene, perché io non sono che un'illusione, ma sarò sempre felice perché ci sei stato tu. Forse anch'io sono un'illusione, Su Yen. Devi scriverlo. Sciocchino, non so scrivere. Devi farlo. Ma temo che soltanto nel mio mondo ti sarà possibile scrivere. Nell'altro, nel nuovo mondo, forte nel sacrificio altruistico, non potrai farlo. Per questo voglio tenere il mio braccio intorno a te, per proteggerti dal dolore, per vederti fiorire come la primavera. Vorrei che tu scrivessi un libro. Non ho altro libro che te. Allora vuoi scrivere un libro su di me, narrando come ci siamo amati e come tu sia stata il fine ultimo della mia ricerca? Questa è una menzogna, tu sai che c'è qualcos'altro. Non ancora, non ancora. Ed ecco il sole oscurato dal nostro improvviso immenso terrore. Ecco l'intero mondo meraviglioso farsi buio all'avvicinarsi di questa cosa senza nome. Terrorizzati e pieni d'amore nascondevamo il viso, tremanti. Non ancora, non ancora. A sera l'oro e il sangue del tramonto e le nuvole dal lungo muso di lontra, con la schiena grigia e il ventre dorato, portate rapidamente al macello, a una morte terribile dietro le colline implacabili. Crudele è Dio che ha fatto le sue creature tanto belle da permetter loro di predarsi a vicenda, spirito, corpo e vita. Dobbiamo accettarlo e tollerarlo anche se è intollerabile. E poi il vento della notte che riempiva il mondo e l'oscurità, lui e Dio.